I gruppi di difesa della donna nascono a Milano nel 1943 con l'obiettivo di partecipare attivamente alla lotta contro il fascismo. Nell'atto costitutivo si legge: «Le donne italiane che hanno sempre avversato il fascismo, che della guerra hanno sentito tutto il peso per i lutti, le case distrutte, i sacrifici e le raddoppiate fatiche, non possono rimanere inerti in questo grave momento». Da un iniziale ruolo assistenziale, queste donne diventano protagoniste in attività di informazione, propaganda, trasporto di ordini e munizioni, oltre che nella partecipazione diretta alla lotta armata. La crescita dell'organizzazione è rapida. In un anno i gruppi diventano 119 con 2.299 iscritte, per arrivare a oltre 70.000 alla fine della guerra. Anche Baggio vede la presenza di un gruppo di difesa delle donne. Tra le principali figure c'è Giuseppina De Angeli, detta la Carbonaia. Libertà, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Prima dell'8 settembre, chi organizzava le donne era Vico Giuseppe e facevamo le riunioni nei prati. Inizialmente eravamo in tre, le mie nipoti ed io. Poi abbiamo formato dei gruppi nei rioni di 5-6 persone. Alla fine della guerra eravamo 25-30. Il nostro lavoro consisteva nel reperire fondi, vestiti, medicinali e altre cose da mandare ai partigiani. Il luogo di raccolta era casa mia, in via Rismondo 34. Una volta al mese portavo anche dei soldi alle famiglie dei partigiani che combattevano in montagna. Riuscivo a raccogliere anche 2.000 lire a settimana, che era tantissimo. Alcune nostre compagne andavano a manifestare a Milano protestando per la scarsità di cibo. Facevamo anche conferenze lampo nelle mense delle fabbriche. Erano la Gianna e la Carla a farle. Andavano alla Borletti, alla Redaelli, alla CGE, entravano a sorpresa, saltavano sul tavolo e parlavano. Tutti dovevano ascoltare. In ogni fabbrica c'era un minimo di organizzazione politica, gli aprivano la strada, venivano accompagnate in bicicletta dai compagni sulla canna per allontanarsi il più in fretta possibile in caso di incidenti. Appena prima dell'insurrezione, Santini mi aveva dato l'incarico di preparare le armi. Avevamo qualche rivoltella, qualche bomba a mano che le mie nipoti si erano procurate sui tram andando a lavorare. Il mattino dopo mio marito tagliava la verdura per i polli, io ero nella cucinetta, il cancello della casa era aperto ed è entrato un camion con su 5-6 fascisti. Abbiamo pensato che ci fosse stata una spia. Ho cercato di allontanare mio marito, ma lui era impietrito dalla paura. Poi però hanno girato il camion, sono tornati indietro. Erano entrati solo per far manovra. La carbonaia che aveva il suo esercizio, lei vendeva il carbone, tutti andavano a comprare il carbone perché ne avevano bisogno, quindi era un esercizio dove c'era molta affluenza di gente ed era il luogo ideale per la diffusione della stampa clandestina. Casa mia era il recapito della stampa che poi veniva distribuita ai compagni. Sulla stampa c'erano le notizie dei partigiani, delle avanzate, delle imboscate, c'erano i volantini che noi buttavamo un po' per la strada e quando era possibile nella caserma della Brigata Nera, che si trovava dove c'era la casermetta occupata dai fascisti. C'erano anche i miei figli di 11 e 14 anni che buttavano i manifesti nella casermetta, poi scappavano via per via Brigatti e in un attimo erano a casa. Poi alla casermetta è stata buttata anche una bomba. Nascondevo la stampa nei luoghi più impensati. Sotto il portico dove c'era la legna e carbone si formava uno strato di segatura. Io scavavo un po' e poi nascondevo lì sotto. Alla sera me la portavo in camera e la suddividevo per darla a quelli che la dovevano venire a prendere. Una sera mi bussa alla porta la Brigata Nera. Abbiamo cercato di prendere tempo dicendo di essere a letto. Intanto io arrotolavo le stampe e le ho infilate nel buco del camino. Per l'8 marzo le nipoti hanno fatto dei manifesti con la carta dei sacchi di cemento. Con la tessera hanno preso la farina, con la quale hanno fatto la colla, e durante il coprifuoco li hanno attaccati ai muri. Hanno incontrato i fascisti e si sono nascosti in un portone. Prima dell'insurrezione due ragazzine, le sorelle Gorlini con i fratelli in montagna, avevano fatto con un pezzo di carta ben ritagliata la forma delle falci e il martello e poi avevano attaccato questo simbolo su tutta via Rismondo, tutta via Scanini. Quando la ronda fascista le ha trovate, hanno nascosto il secchio e il resto in una siepe e hanno fatto finta di aspettare il padre alla fermata del tram. Passata la ronda, però hanno ripreso. Proprio c'è stata un po' la sfilata, diciamo, della liberazione, il 26, 27, in quei giorni lì, hanno tirato fuori la bandiera rossa che avevano conservato per tutti questi anni, con un pezzo di stoffa che erano riusciti ad avere da un fascista che non sapeva che loro avrebbero fatto la bandiera. Durante il periodo della clandestinità, il nostro obiettivo era la rivoluzione, il comunismo in Italia. A fare i militanti comunisti abbiamo iniziato in tempo di guerra. L'idea l'avevamo nel sangue.